Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Popolo dei già svegli, buongiorno. Voi siete lì in macchina, nel traffico, voi state andando a lavorare. Chiudi il becco. Adesso qua deve scorrere il sangue. Oh, entriamo a gamba tesa. Fora i romani dal Veneto. Voglio dire una cosa, aspetta, io voglio rimanere in materia. Io se i Veneti lo avessero ascoltato ieri mi avrebbe fatto piacere. Lettura molto sorprendente e la polemica è aperta. Mi sembra che questo Vegas sia ben allenato per diventare presidente della Lega di Serie A. Si rende conto che potrebbe fornire un futuro premier al paese? Discorso quasi contrario al concetto veltroniano. Se poi succede un guaio, tu stai calmo, stai tranquillo. Ti pare poco. I cafoni, gli arrivisti sono romani, sono burini, è vero? Sono tutti dei sudisti, no? Lo scontro fra il nord e il sud insieme e anche la lotta di classe. Gli italiani, certo. Essere più vicini, più popolari ancora. Torpigna diventava una categoria antropologica. Ma su questo si può discutere. Chiudi il becco. Italia vera, no? Un tempo c'era un dibattito risorgimentale, è peggio il Parlamento o peggio il Paese? Se dovessimo chiedere... Io, guarda, posso anche capire il senso della domanda. Tutto il mondo delle scommesse in Italia è gigantesco. Saltano tutti gli schieramenti. Fra le grandi abitudini, i grandi riti, c'è anche il grande immaginario, il divertimento, l'evasione. Sta diventando una telenovela. Popolo dei già svegli, buongiorno. Gli echi della travolgente irruzione in questa redazione, in questo studio di padre figlio De Laurenti. Parlavamo di Cinepanettoni, ma in realtà anche dell'Italia. E oggi torniamo dopo l'interruzione della settimana, carichi di notizie, di temi, di problemi. Allora siamo qui e ovviamente c'è molto da discutere. Un grande direttore al nostro fianco, Giorgio Mulè, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Qual è la notizia del weekend che ci siamo persi, diciamo, secondo Giorgio? Insomma, il weekend è stato un po' arido di notizie, perché ci siamo persi in un funerale tardivo di Re Vittorio Emanuele, poi ci siamo persi dietro la telenovela di Ghizzoni, la Boschi si è alzata il sopracciglio, cioè non l'ha abbassato abbastanza, insomma. Non è che ci siano state queste grandi notizie, un po' moscetto, ecco, è stato un po' moscetto da quel punto di vista. E allora entriamo nel corteo regale con il ritorno di Vittorio Emanuele III in Italia. Hi everybody, this is Måneskin, you're listening to Choose. Si è parlato molto di segretezza. In questi ultimi tempi non c'è stato nessun segreto, ma semplicemente riservatezza, come è normale che sia nelle questioni di famiglia. Porto il ringraziamento della famiglia ai frati minori della cattedrale di Alessandria d'Egitto, che si sono curati, si sono occupati amorevolmente della cura della tomba del Re Vittorio Emanuele III. La speranza è che questo ritorno in Italia possa dare a una condivisione della visione storica, della memoria storica in Italia. Allora, questo era il delegato di Casa Savoia e io volevo chiedere a Giorgio Mulè se c'è ancora una pregiudiziale antimonarchica in Italia, se sia giusta. Leggevo un'intervista, la leggerò più tardi, di Elena Agarossi, che al Corriere della Sera dice: beh, il re che ha portato l'Italia nella guerra e che l'ha portato all'8 settembre. No, una responsabilità dopo 80 anni non si può ricercare, ma soprattutto farci sepolto. I morti sono morti, i nostri cimiteri sono pieni di personalità indegne di essere, come dire, considerati padri della patria, ma anzi di essere dei grandi traditori della patria. I nostri cimiteri sono pieni di assassini, di persone che ci hanno rovinato e ferito la democrazia dal 1947. Insomma, i nostri cimiteri sono, ahimè, pieni di persone di cui faremmo volentieri a meno, eppure sono sepolti, e non vedo perché nei confronti di Casa Savoia, di un re che ha enormi responsabilità, ci debba essere un veto dopo 80 anni addirittura scomodando principi costituzionali. Un morto è un morto, ha fatto la sua storia, dopodiché la storia lo giudica, ma non può esserci una pregiudiziale. Molto chiaro, la Meloni fa il presepe, lunedì prossimo è Natale, oh, e Gesù, c'è già chi si sta attrezzando. Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale, e invece quest'anno cambio tutto. Ho deciso di fare il presepe quando non lo fa più nessuno. Ho deciso di fare il presepe quando nelle scuole dicono che non si può fare perché altrimenti offende chi crede in un'altra cultura. E proprio non me ne faccio una ragione e continuo a chiedermi: ma come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offenderti? Allora, Mulè, è il presepe militante, nel senso, come risposta alla tradizione laica e nordica dell'albero, il ritorno alla tradizione cattolica trasformato in un messaggio politico. Intanto, tu cosa fai, il presepe o l'albero? Io faccio l'albero di Natale con un piccolo presepe accanto, ma io devo dirti che quando ieri l'ho sentita, perché non l'ho visto il video, l'ho sentito. È un video su Facebook. Ok, l'avevo sentito soltanto l'audio, a me sembrava un'imitazione, devo dirti all'inizio, no, siccome conosco ovviamente Giorgione, dico vabbè, è una bellissima imitazione, perché figurati se si mette a fare una cosa del genere. Invece era vero, ecco, mi ha molto colpito. Ma perché? Cosa c'è di male? Cosa c'è no, di... nulla, per carità, anzi le fa onore ed è coerente con quello che... Ma insomma il pathos, il trasporto con cui lo faceva mi ha colpito, insomma non mi è sembrato molto Giorgia Meloni. Molto recitato. Berlusconi, senza maggioranza, avanti con Gentiloni, lo sapete che è il tormentone, ma mi interessa sapere la lettura di Mulè. Penso che la soluzione più corretta sarebbe quella di continuare con questo governo e di consentire un'altra campagna elettorale non brevissima alle varie forze politiche, che possono permettere a tutti di far conoscere al più grande numero possibile di elettori i loro programmi e la loro posizione. Abbiamo fatto risentire questo pezzo rispetto alla vulgata di venerdì, perché molti hanno detto che questa frase era un via libera a Gentiloni, e nei giorni successivi qualcuno ha detto no, Berlusconi ha detto io voglio vincere, poi se non si vince c'è Gentiloni. Quindi delle due diverse interpretazioni, portone aperto a Gentiloni oppure frase diciamo normale, quale esposi tu? Beh, secondo me è una frase tra virgolette normale, nel senso che in caso di too close to call, in cui non vince nessuno, è chiaro che il governo che rimane in carica è quello di Gentiloni, ed è chiaro anche che Silvio Berlusconi non nutre alcun pregiudizio, anzi, nei confronti di questo premier, contrariamente ad altri del passato, e che quindi una campagna elettorale gestita con un governo Berlusconi, con un governo, scusi, Gentiloni, lo rassicurerebbe. In questo, come dire, non vedo nessun tipo di preinciuso lanciato sotto Natale, anzi penso che sia abbastanza normale. Si cerca una stabilità di cui questo paese ha disperatamente bisogno, insomma speriamo che dalle elezioni esca un risultato chiaro, perché viceversa questo paese non reggerebbe, al contrario di altri in Europa, dei colpi di instabilità, perché sarebbe immediatamente aggredito dall'esterno. Di Maio, in grande spolvero, è andato all'Annunziata, si è fatto riprendere dentro un simulatore di volo e ha attaccato gli avversari. Ieri, ospite di Rai 3, ha evitato però il confronto con Salvini andandosene via un momento prima. È la tecnica di chi è in vantaggio o di chi sta rincorrendo? Ciao a tutti, questi sono giorni in cui stiamo capendo quanto questo paese sia zavorrato. I vecchi partiti sono una zavorra, con i loro conflitti di interessi, le loro continue questioni interne, le banche che stanno facendo crollare la Seconda Repubblica. Noi dobbiamo volare alti, dobbiamo portare questo paese a volare in alto, ed è per questo che oggi voliamo davvero. Che dici, Giorgio? Inseguimento o un mantenimento di una posizione dominante? Ma io inviterei tutti ad ascoltare bene quello che non solo Di Maio ma tutti i leader dicono in queste settimane, in questi mesi. Mi ha molto colpito il duello sulle pensioni, mi ha molto colpito il fatto che ci possa essere ancora qualcuno che crede di poter rapinare i pensionati anche se guadagnano 5.000 euro, perché per guadagnare quei 5.000 euro netti vuol dire che sono stati versati contributi pari o uguali, e quindi sono stati, come dire, sudore e oro consegnato alla patria. Che poi la patria arrivi e si riprenda quello che uno ha legittimamente conseguito mi sembra una follia. Le pensioni non si tagliano, si crea lavoro e sviluppo per pagare le pensioni, quindi su questo, come dire, nessuna apertura di Maio, non so se è tattica, so soltanto che è un concetto molto, come dire, ignorante e soprattutto che non tiene conto di diritti, di principi costituzionali che sono inalienabili. Mi sembra chiarissimo. Senti, Castellitto, storico lettore del Partito Democratico, nella settimana in cui c'è un'intervista di Renzi oggi a Repubblica che spiega perché il PD cala, dice che anche lui sta dubitando e potrebbe cambiare casa. Io sono, come dire, appartengo a una generazione che era abituata a vedere, come dire, la sinistra portare la pasta e l'olio ai pensionati di Ostia Antica, e non certo i fascisti. Hai sentito dalla Gruber questa rivelazione che dopo anni di voto Dem si sente incerto e spaesato. Chissà quanti come lui. Sì, sono abbastanza certo che dal carro renziano alcuni hanno cominciato già a scendere, molti scenderanno, moltissimi si accalcheranno quando capiranno che magari Renzi non ha più nuvole, ma è il vizio italico di essere un po' bandiera al vento, insomma abbiamo cominciato parlando del re e il vizio dell'8 settembre, ci andiamo a coricare con la camicia nera e ci alziamo col fazzoletto di colore dei... Però Castellitto non è uno che insegue consensi, no? Non credo che ci sia una motivazione opportunistica. Non ne faccio un discorso di tipo utilitaristico, è come se dicessimo che la Ferilli ha abbandonato Renzi nel nome di un interesse, no, ecco, diciamo, vogliamo molto più basso, non siamo all'ideologia, siamo a questa sinistra un po' salottiera, un po' con l'R-Mosh, un po' radicale. E allora io la difendo, mai toccare la Ferilli. Il ministro Orlando, guai. In tutti i sensi, per carità, no, ci mancherebbe, al totale rispetto per Sabrina Ferilli, una gran donna, una gran testa, però insomma devo dire che ma perché una donna, lei veramente guidata dalle passioni fa quello che crede, non credo che abbia... Allora, senti invece il ministro Orlando sulla Boschi. Una commissione d'inchiesta non è un modo di fare, lo voglio dire a tutti, a chi cerca di strumentalizzarla in un modo e chi cerca di strumentalizzarla in un altro. Non è un modo per fare in parallelo i processi li fanno i giudici. Ha un senso se da quell'analisi emerge una proposta politica. Ora io credo che il PD debba fare una proposta su questo tema. E cresce il dissenso oppure è tutto fisiologico dentro il Partito Democratico? No, cresce il dissenso e aumenterà man mano che i consensi caleranno all'interno del PD, che ha preso una di quelle chine che è pericolosissima per un partito, perché non riesce più a fermare il calo dei consensi, quindi non solo crescerà ma salirà parallelamente di toni, e la segreteria di Matteo Renzi sarà messa a durissima prova molto prima che vengano firmate le liste. Insomma, adesso dentro il Partito Democratico oggettivamente c'è una fase difficilissima in cui, per una leadership che voleva essere carismatica e personale, fa i conti invece con una mancanza di carisma e di personalità che è tutta figlia di un razzismo che adesso non viene più accettato. E dopo l'eliminazione dell'Italia e la Svezia sembra che uno strano cortocircuito abbia prodotto un sommovimento anche dalle parti dell'IKEA, un nuovo caso, una nuova polemica per un lavoratore del colosso svedese licenziato dopo una malattia. Sentiamo. Io lavoro in IKEA da 18 anni, 5 anni fa mi sono sentito male in azienda, sono andato a casa, la mattina dopo sono stato ricoverato d'urgenza con un infarto, ho avuto 2 arresti cardiaci e una parte del cuore è rimasta lesionata, per cui chiaramente non sono più performante, sono diventato un disabile a tutti gli effetti. C'era qualche anno, le assenze sono sempre state certificate dai medici specialisti, per un paio di volte ho mandato in ritardo il numero di protocollo del certificato, nonostante avessi avvisato l'azienda che ho in malattia, per cui non ero assente ingiustificato. Questo non è stato sufficiente e mi sono trovato il 25 ottobre con una lettera di licenziamento. E questa l'Italia dell'incertezza che ci consegna la crisi? Lavoratori un tempo sicuri, oggi, come dire, soffrono, combattono. Sicuramente sì, però insomma è anche un po' un'Italia in cui alcuni padroni, tra virgolette, imprenditori erano dei pirati, quindi erano i rispettosi dei diritti, loro erano pre-crisi e lo sono post-crisi. E in Italia certamente figlia dell'incertezza, in cui il grande drammatico problema è anche culturale, nel non voler accettare che si possono fare, come succede in America, 4-5 lavori durante la propria vita lavorativa, che non c'è più, ahimè, un posto fisso che dura 20 anni o 30 anni, mi rendo conto è difficilissimo, però è un'Italia che in questo, soprattutto per chi oggi ha 20 anni, 25 anni, capisce che i tempi sono cambiati. Il dramma vero è l'incapacità di potersi costruire una pensione, torniamo al tema di prima, perché con quello che si guadagna non c'è la possibilità di pensare a quello che si avrà a 65, 70, 75 anni, quando ci consentiranno poi di andare in pensione. Il vero dramma è quello. E questo, Giorgio, è stato anche il weekend dello sciopero dei piloti Ryanair, che alla fine l'hanno avuta vinta. All'aria che tira c'è la testimonianza di un pilota, sentite. Ryanair utilizza delle società inglesi di interposizione di manodopera, le quali costringono i piloti a mettere in piedi una SRL. Il mio rapporto con Ryanair non è neanche diretto, io ho un rapporto con questa società di intermediazione, i turni di lavoro mi vengono dati da Ryanair, la quale domani potrebbe benissimo non darmi più un giorno di turno, io rimango senza lavoro con un SRL. Questa è l'intermediazione, che parole belle che ha inventato la modernità. I turni devi dare a Ryanair, ma tu lavori per un altro. Ma difatti appartiene anche a quella metodologia che spesso ci fa, esatto, sorridere o deprimere, che appartiene a società globali, a multinazionali aggressive, che non hanno 90 volte su 100 beni materiali, insomma non hanno più il concetto di fabbrica come era una volta, ma sono etere anche nel dare i turni. Lo abbiamo visto recentemente anche con altri casi. Sono figlie, cioè, di un tempo in cui, esattamente come dire, i crismi del lavoro sono totalmente rivoluzionati e messi in discussione, per cui noi ancora oggi giustamente ci indigniamo quando Ryanair non conosce il diritto di un sindacato o quando sentiamo un'intervista del genere, ma purtroppo ancora una volta è figlio di una globalizzazione che è stata in questo caso selvaggia, ma che va addomesticata e che non va accettata per come ci viene proposta. Allora va addomesticata, dice Mulè, noi ci fermiamo un attimo per le strade e torniamo con lui e con i Già Svegli, a fra poco. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. I Già Svegli. Come tante mattine alle 6:20, anche oggi mi fa allegria vedere camion e camioncini AMSA a Milano che escono dal deposito e con tutte le loro luci girevoli corrono verso i sacchi. Ciao, sono Già Sveglia perché mi piace ascoltare l'inno di Mameli la mattina, che trasmettete sempre, e poi perché oggi è una giornata storica, perché è stato approvato il biotestamento finalmente. Buongiorno a tutti, sono Silvia, un'insegnante di liceo di Verona. Sono Già Sveglia e questa abitudine ce l'ho già da 35 anni. Ancora mi alzo con la voglia di vedere i miei studenti. Lunedì a Radio 24. A lunedì riprende l'avventura, perché Telese con disinvoltura, fra tutte le notizie in redazione, in primo piano mette quelle buone. Magari quelle buone. Però quanta poesia in questi risvegli e nella professoressa che si sveglia ancora di buon umore perché vuole incontrare i suoi studenti. Tu, Giorgio, come ti svegli la mattina? Girato, arrabbiato, volentieri, presto, tardi? No, mi sveglio molto presto, insomma, alle 6:30, la sveglia comunque suona al mattino. Vado a dormire contento perché anche io sono di quelli che sente l'inno, diciamo, in radio, lo sente a mezzanotte. Davvero? E devo dire che sì, che mi fa, che Dica, la cosa mi commuove quando sento l'inno, quindi mi fa molto bene, una camomilla, mi dà anche la carica, quindi no. Vado a dormire tardi, mi sveglio molto presto, sono sostanzialmente arrabbiato, devo dire, però insomma, vado a dormire con la buonanotte di Mamelenti. Allora, siccome il nostro prosatore dice giustamente, il nostro poeta, rimatore, che diamo molta attenzione alle buone notizie, a Napoli, barbieri gratis per i poveri. Siamo un'associazione Salvi per un pelo. L'associazione nasce da un'idea dell'anno scorso. Ci ha ispirato per dare un supporto alle persone che anche con un semplice taglio non se lo possono permettere, sperando che li facciamo stare un po' migliori e sono un po' più felici. Il lunedì ci rechiamo presso tante strutture, centri per senza fissa dimora, centri d'accoglienza dove ci sono bambini, orfanotrofi, chi più ne ha più ne metta. Beh, bella questa, non perché ci sia il buonismo, ma perché c'è il servizio. Dice, io faccio il barbiere, che posso fare? Vado a tagliare i capelli gratis, è carina. È meraviglioso, è stupendo, io li amo i napoletani quando sanno essere così veri, così immediati. Insomma, è come il caffè sospeso. Invece il caffè è vero, sospeso, qui c'è, taglio. C'è il taglio sospeso. Per Salvi cui, per ma un pelo. Ma la spontaneità, la genuinità dell'iniziativa, cioè sono un passo avanti. E qui l'uomo di cronaca che è in te per darci la tua interpretazione sull'incredibile intrigo internazionale Igor il Russo. E per fortuna è stato preso questo bastardo, anche se non ci sarà più Davide, però almeno che sia fatta giustizia. Come l'hai saputo? Tramite un amico di mio marito che si trova in Spagna per lavoro, mi ha avvisato subito che è stato preso Igor. Io non ci credevo, perché non ci credevo più a niente, non credevo più a niente. È la voce bella della vedova del barista di Budrio che finalmente ha avuto giustizia. Ma come è stato possibile? So che sei appassionato della cronaca, dei suoi misteri. Questo è veramente un caso che sarà studiato nelle università. Ma insomma, Igor, che non è russo, ma insomma, sì, ma poco importa, è un criminale che è quello che la categoria delle persone normali relegano alla voce bella o bestia, ma una capacità che è paramilitare di muoversi sul territorio, di farti disperdersi, di confondersi tra le persone, che non è figlia soltanto di un addestramento ovviamente, ma di qualcuno che l'ha aiutato. Non penserei a livelli sofisticati o elevati, andrei molto giù per i rami su un livello che lo porterà, poi vedremo, in contatto con dei pusher, con degli spacciatori, con dei delinquenti, ma non con una spectre che a livello internazionale ha protetto, ma poi da che è un criminale vigliacco della peggiorismo, che non ha nulla a che vedere con sistemi sofisticati, uno che uccideva soltanto perché trovava qualcuno sulla sua strada. Appartiene davvero alla peggiore risma dei criminali, qualora ci potesse mai essere una classifica, perché non ha avuto né onore né lealtà nei crimini che facevano, soltanto spudoratezza e barbarie in quello che ha combinato. Allora, è un omaggio di un ascoltatore alla puntata ai report di lunedì scorso, un capolavoro, vero? E un altro messaggio di testimonianza, io a quest'ora faccio la lavatrice, bravo o brava, perché non ti firmi con il nome, la polemica su Zalone per la canzoncina cantata da Bonolis su Mirko il Frocio. Un giorno di pioggia c'è Mirko che affoggia, si strugia con Licia per caso, e lei pavoneggia, si atteggia e sfoggia la sua proverbiale bellezza, ma Mirko non la caga di pezza e lei non capisce perché. Un ciuffo rosso e biondo e frocio fino al fondo. Devo dire che qui andrò controcorrente. Secondo me non è per niente offensiva agli omosessuali. Conosco molti omosessuali che ridono di questa canzoncina, perché qui fra l'altro l'omosessuale è l'elemento forte che rifiuta la bellona. Quindi sono state polemiche un po' ad minchiam, diciamo. Anche non sei non d'accordo? Non è esattamente politicamente corretta come frase, ma non ho visto quello che si parla, però vabbè, ok, no. Fammi dire una cosa, però. Posso dire, bisogna saper ridere, in questo paese oramai da molto tempo non si sa ridere, tutto si prende tremendamente sul serio. E allora, io alla chi smiliccia opporrei un'altra cosa per ridere la mattina, dicendo qual è il primo transessuale italiano della storia, tu sai chi è? E Joe Staiano. Ma che, quando mai? Lady Oscar, ecco. Allora, no! Buttiamola in caciara. Okay? Mi hai depistato. Dovrei stare nei castoni animati, però, insomma, un po' di sane risate, ma con il cuore leggero, fa bene a tutti, fa bene a tutti. Poi, nelle cose serie, giustamente difendiamo i principi, però ogni tanto, e lasciamoci andare, ridiamo un po'. Allora, grazie mille a Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Speriamo di riaverlo presto. Ci fermiamo per il GR ed entriamo poi nel vivo della rassegna stampa. Ciao!